Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 4 aprile 2015. Ostello del pan perduto, lungo le vie d'acqua, si dorme a impatto zero. Costi ridotti per il portafogli nella migliore tradizione degli ostelli e impatto ambientale che addirittura scende a livello zero. Sono queste le caratteristiche dell'ostello del pan perduto, collocato presso le omonime dighe del 1884, di cui lo scorso anno, il 2014, è stato ultimato il piano recupero ambientale e culturale. L'intervento ad opera del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ha rilanciato un vero monumento idraulico del XIX secolo, ma soprattutto propone il modello di ospitalità diffusa lanciato in vista dell'Expo nel cuore del sistema delle vie d'acqua lombarde. Fin qui la notizia del 4 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto delle dighe del Pan Perduto, nelle parole di Massimo Lazzarini, direttore del progetto Area Pan Perduto del consorzio Est Ticino Villoresi. Progetto molto ampio di quasi 20 milioni di euro che prevede la messa in sicurezza di tutto il sito delle dighe che sono del 1884 e che richiedevano una manutenzione straordinaria dopo aver servito in questi anni egregiamente. Questi lavori sono già iniziati e saranno completati nel corso del 2014, assicurando quindi la possibilità di avere sia l'acqua per tutto il sistema dei navigli che viene appunto derivata a Pan Perduto, sia la fruibilità in sicurezza di questo luogo bellissimo, una delle zone più belle lungo il Ticino. Proprio per questo sono stati attivati numerosi ulteriori progetti, tra cui quello della trasformazione del casello idraulico, che attualmente è oggetto di questi lavori, per la sua trasformazione in un ostello. Una struttura ricettiva che avrà alcune caratteristiche molto particolari, disponibile per 17 posti letto totali, facilmente raggiungibile attraverso un sistema di auto elettriche con l'aeroporto di Malpensa e caratterizzato da delle soluzioni architettoniche che, pur mantenendo il pregio dell'edificio originario, permettono di classificarlo come completamente libero da emissioni nocive. Infatti tutti gli impianti saranno realizzati in maniera tale da non utilizzare gas e emettere CO2 in atmosfera. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.